Mix 24, i gialli della storia. Il 9 novembre del 1989, con la caduta del muro di Berlino, la storia è cambiata, portandosi dietro la politica dei blocchi, la guerra fredda, la contrapposizione tra est e ovest. Ma che cosa è realmente successo nell'ex DDR? Forse non tutti i cittadini dell'ex Germania democratica sono contenti di ritrovarsi in un mondo capitalistico e democratico, ma con minori protezioni e garanzie. Viene definita nostalgia, la nostalgia dell'est di quel passato. Noi a Mix 24 cercheremo di capire come si vive in quella parte della Germania e quali sono i sentimenti che percorrono i suoi abitanti. Molti tedeschi dell'est erano convinti che la Wende, il cambiamento, oltre alla libertà, oltre alla fine della dittatura socialista, avrebbe portato tutti i vantaggi di una società più moderna, più ricca e avanzata di quella nella quale vivevano, senza perdere peraltro nessuno degli aspetti positivi della vita precedente, come la sanità pubblica, la sicurezza sociale, l'ordinamento scolastico, il costo della vita molto basso. Kohl, il cancelliere della Germania federale, aveva detto: «Riceverete appezzamenti di terreno e non ci saranno aumenti di tasse. Finanzieremo tutto strada facendo e sarà un procedimento a costo zero». Promesse che non convincevano coloro, come ce n'è sempre di fronte alle grandi trasformazioni, incapaci di adattarsi al nuovo, oltre a tutti coloro che dovevano pagare i costi onerosi della profonda trasformazione economica. Il film Goodbye Lenin racconta gli sforzi sovrumani di un giovane della ex DDR all'indomani della Wende per nascondere alla madre, malata di cuore e appassionata militante del partito, la caduta del muro e l'avvenuta riunificazione con i fedigrafi cugini dell'Ovest, notizie che potrebbe causarle un infarto. La commedia mostrava per la prima volta al pubblico occidentale che non tutti i sudditi della Repubblica Democratica erano stati favorevoli alla riunificazione e che anzi una parte rilevante di essi era scontenta del cambiamento e addirittura nostalgica dei vecchi tempi. In Germania coniarono una parola per descrivere questo sentimento così diffuso tra gli abitanti della Germania orientale. Lo chiamarono ostalgia, nostalgia dell'est. È innegabile che il fenomeno parta da un reale interesse verso il problema. L'ostalgia, in fondo, è una forma di difesa del proprio passato. E poi c'è anche la difesa contro i giudizi faziosi e distruttivi verso la DDR e verso il difficile percorso delle persone che hanno vissuto all'interno della DDR. A mio avviso, le aspettative si sono realizzate. Il capitalismo ha vinto, o perlomeno viviamo in una società determinata dalle sue regole. E l'ostalgia è solo un'idea romantica nei confronti di ciò che è passato. È ricordo. E questo è comprensibile, ma non giustificabile. Ogni uomo ricorda con nostalgia il proprio passato. E quelli dell'est non ne hanno un altro. La solidarietà, beh, non è difficile da capire. La DDR, con il suo sistema dittatoriale di controllo e repressione, portava la gente ad una maggiore coesione. Oggi invece le persone vivono molto più chiuse in se stesse. Appena caduto il muro, vedevi la gente dell'est che si liberava di tutti gli oggetti che aveva in casa per cambiarli con quelli dell'ovest. Tutto ciò che era dell'ovest era bello. Tutto ciò che era dell'est era spazzatura. Un'euforia passeggera sull'onda dell'entusiasmo del momento. Ma poi si ricomincia a vivere nella normalità. Eisenhüttenstadt, la città dell'acciaio. Era il fiore all'occhiello dell'industria siderurgica della DDR e uno degli impianti più moderni d'Europa. Impiegava oltre 10.000 persone, esportava in Russia e nel resto dell'Europa orientale più della metà della sua produzione. Mi chiamo Ronny Vane e vengo da Stralsund. Ho iniziato in questa acciaieria nell'85 e ci lavoro ancora oggi. Sono direttore dei turni da 3 anni. Prima della Wende eravamo in 7-8. Ora la squadra è ridotta alla metà. Siamo solo 3 o 4. Prima c'era una maggior coesione sociale. Anche all'interno dell'acciaieria c'era più partecipazione. Si lavorava in gruppo. Ora invece ognuno pensa solo a sé. Ma devo dire che lavorare qui è ancora piacevole. C'è ancora un forte spirito di collaborazione tra colleghi. Per me e mia moglie, con la Wende, la qualità della vita è migliorata. Lavoriamo in due e ci siamo potuti permettere qualcosa in più. Una casa, non grande, ma chic. Ma con quattro bambini bisogna stare attenti. Devono essere nutriti, vestiti, bisogna mandarli a scuola. E poi bisogna aiutarli economicamente. Una volta a queste cose ci pensava lo Stato. L'industria nella DDR aveva una tale importanza strategica nell'economia del paese da godere di una relativa autonomia, così da essere libera da legami forti e diretti con la politica o con il partito dei lavoratori. I responsabili della produzione erano in rapporto diretto con i lavoratori e questi avevano piena fiducia nei confronti della dirigenza aziendale. Dopo l'unificazione, i lavoratori e le poche strutture industriali sopravvissute al cambiamento si sono trovati uniti nell'affrontare un destino comune, ma alla fine hanno dovuto soccombere alle leggi di mercato. Christian Osbach è responsabile dei rapporti con i sindacati metalmeccanici europei. Nelle regioni della ex DDR c'è un avvertibile malcontento, soprattutto oggi, in presenza di una serie di ristrutturazioni che stanno riducendo sensibilmente l'occupazione. Nel 1990 i dirigenti politici occidentali avevano detto: andrà tutto bene, vi promettiamo che sarete tutti uguali. Siamo tutti felici per questa riunificazione, venite qui, abbracciamoci. Questa era una prospettiva molto affascinante, ma difficilmente realizzabile, ed ha avuto un prezzo altissimo. Negli ultimi anni la disoccupazione è aumentata, ed è uno dei maggiori problemi della Germania di oggi. Ci sono troppo poche industrie. Nell'ex DDR, all'inizio degli anni 90, e in soli due anni, abbiamo perso 1 milione di posti di lavoro. E nelle città dell'ex DDR la vita è completamente diversa dal resto della Germania. Nascono anche iniziative orientate al ricordo e alla nostalgia. Nelle città dell'ex DDR i negozi di souvenir ostalgici sono numerosi. La clientela è largamente rappresentativa dell'età e delle varie categorie sociali, ma la quasi totalità dei frequentatori viene dalla Germania dell'Est, quasi avesse difficoltà ad accettare molti dei prodotti occidentali. Siamo venuti a comprare una vanga, la stessa che usavamo ai tempi della DDR. Era di ottima qualità. Ciò che rimpiango è la solidarietà che prima c'era tra colleghi, che avevamo nel collettivo. Le relazioni umane erano più forti. Oggi tutto questo non c'è più. Siamo le macerie del capitalismo. I territori dell'ex Germania orientale si stanno trasformando poco a poco in immensi dormitori per pensionati. Sulle panchine siedono uomini e donne stanche, un bagaglio ingombrante, una vita senza vita. In una situazione in cui è molto forte la disoccupazione e la mancanza di garanzie sociali, nascono iniziative politiche intransigenti ed aggressive che spaventano anche il resto d'Europa. I neonazi sono solo fino a un certo punto un movimento nostalgico. Di fronte alle grandi difficoltà economiche, alle promesse mancate, alle aspettative deluse, hanno risposto con la tipica reazione del sottoproletariato. Col revanchismo, col razzismo, con l'odio per i movimenti di sinistra. Kai Diesner zum Anlass genommen. È stato dopo il fallito assalto al monumento che un dirigente nazista, Kai Diesner, proclamò guerra ai membri del PDS. A quel tempo io avevo una libreria a Marzahn, in un edificio del PDS, dove Gregor Gysi, a quel tempo segretario del partito, aveva una volta il suo ufficio. Quel Diesner è entrato nel primo edificio del PDS che ha incontrato con l'intento di fare una strage ed è salito scuro in volto nel mio ufficio, ha tirato fuori il suo fucile a pompa e ha fatto fuoco colpendomi. Io sono sopravvissuto e poi durante la fuga ha sparato anche ad un poliziotto. Cos'altro posso dire? Per me non si tratta solo della perdita del braccio, ma anche del mio lavoro, perché ho dovuto chiudere la libreria. Per questo il 3 ottobre, per quello che mi riguarda, non ho motivo di festeggiare. Qui l'Ovest è arrivato come una potenza vincitrice. E la frattura fra le due comunità è ancora molto forte. Forse le generazioni che verranno riusciranno a cambiare questa situazione. Ma come vivono oggi gli abitanti dell'ex Germania dell'Est? Quali sono i loro pensieri e le loro aspirazioni? La DDR era stata per anni il gioiello che il mondo comunista ostentava di fronte all'Occidente. L'eccellenza tecnologica, il livello di vita non lontano da quello dei paesi occidentali e lo sport, soprattutto, nel quale la DDR primeggiava nel mondo, tutto questo era la dimostrazione che il modello socialista, di cui la DDR era la testimonianza più efficace, era una realtà vitale. Molti occhi qui all'est erano puntati a Occidente, perché la maggior parte della gente della DDR guardava la TV dell'Ovest assorbendo quello che la propaganda le proponeva, subendo soprattutto il fascino della pubblicità che i propagandisti dell'est cercavano di imitare. Quale prodotto usi in casa per essere una brava casalinga? E così si confrontavano i prodotti dell'est con quelli dell'Ovest. Ok, diceva la gente, abbiamo questo, però vogliamo anche quello che ci sembra più affascinante. A quel punto le industrie si sono messe a copiare i prodotti dell'Ovest, per esempio i jeans. I jeans erano uno dei problemi maggiori per i giovani, perché non si potevano comprare i Levi's scampanati. I jeans dell'Est potevano sembrare jeans, ma non erano jeans. Negli anni 60-70 l'economia della DDR competeva su tutti i campi con quella occidentale, nell'industria meccanica, ottica, elettromeccanica, con ottimi risultati, soprattutto nel settore meccanico. Ma col tempo hanno perso il passo. Semplicemente lo Stato non aveva più i soldi da investire. C'è la sensazione diffusa che la società dell'Est sia crollata, permettendo alla parte più ricca della Germania di colonizzarci. Molti pensano di vivere in un paese occupato e sono arrabbiati. Nelle cariche dirigenziali c'è sempre qualcuno che viene dalla Repubblica Federale e tra i cittadini della ex DDR circola il malcontento. Non è possibile che non ci sia, anche tra noi, qualche dirigente capace, perfino negli ospedali che erano il nostro orgoglio. Insomma, tutto è stato rimpiazzato. C'è la sensazione di essere stati assunti come supplenti. Non mi interessa affatto l'ostalgia, è una forzatura culturale. C'è l'idea che la società stia cambiando non solo in meglio. Si riflette e si discute su questo, ma non ha niente a che vedere con l'ostalgia. Più che l'ostalgia ha valore il non dimenticare, ma lamentarsi e dire «ho nostalgia dei miei vecchi beni di consumo, queste sono fesserie». Un primato per ora Berlino Est può vantarlo, ed è il fervore artistico e culturale che pervade il centro della città. I quartieri intorno ad Alexanderplatz, Berlin Mitte o Prenzlauerberg pullulano di caffè letterari, mostre di pittura, spettacoli teatrali. L'arte, sì, l'arte. L'artista vive della sua stessa arte, nel suo atelier, e non si cura dell'ordinamento sociale o delle malefatte del capitalismo, a meno che non sia un artista politicizzato. Certo, prima c'erano gli artisti, i collezionisti e i funzionari di museo. Oggi è arrivato un terzo interlocutore potentissimo, il denaro. È indubbio che molte cose sono cambiate. Io so com'era prima. Ho vissuto nella DDR e tante cose mi sono rimaste nel cuore. Sono felice che un giorno potrò raccontarlo a mia figlia. Non era tutto bello, ma è stato anche bello. Per la mia generazione il cambiamento non è stato problematico. Noi eravamo abbastanza giovani da poter dire «adesso cambierà tutto, ma io sono in grado di cavarmela». È una specie di Atlantide che è stata sommersa e dimenticata. E ora sappiamo che non la si può più recuperare. Mitte, il centro, cioè il centro della Berlino storica, è il quartiere delle gallerie d'arte, dei musei, dei mercatini all'aperto, dei ristoranti alla moda. Una volta questa era il centro di Berlino Est, ora è la zona più vivace della città. E qui c'è il ristorante più ostalgico di tutta Berlino. C'è una differenza di mentalità tra la gente delle due Germanie. Guardi, gli anni dal 1945 alla caduta del muro ci hanno formato tutti. Non ha importanza come, sia da una parte e dall'altra. Quelli che erano d'accordo con il regime, quelli che hanno collaborato o quelli che hanno solo tirato a campare, tutti sono stati comunque plasmati da quegli anni. All'est avevamo un'altra visione del mondo. Ma che importa? Quando si perde una guerra bisogna adattarsi alla sconfitta e tutto il resto passa in secondo piano. Io sono un esperto di computer. Ho sempre avuto un lavoro. Che cosa è cambiato per me? Il mondo è diventato un po' più grande, perlomeno come prospettive di lavoro. Il mondo del lavoro è diventato sconfinato. E naturalmente ci sono degli svantaggi perché è più insicuro. Si deve provare ogni giorno le proprie capacità, cosa che prima non era necessaria. Devo lavorare molto più di prima e non vado più in discoteca perché non ho più tempo per i divertimenti. Ho dei bei ricordi che spesso mi tornano alla mente, cose che racconto anche a mia figlia, che di quel periodo non ha visto molto. Ma è a Berlino dove la differenza tra est e ovest sono più evidenti, come racconta l'urbanista Mattias Riese. C'è una differenza palpabile tra l'atmosfera di Berlino Est e quella di Berlino Ovest, tra la gente dell'Est e quella dell'Ovest, nel modo di mangiare, di vestirsi e perfino in quello di divertirsi. Non è solo una differenza di abitudini, la si può avvertire addirittura nel tessuto urbano, come se si trattasse ancora oggi di due città separate e differenti. Berlino non è mai stata una sola città, non ha mai avuto una sola identità. Si è sviluppata crescendo da due centri distinti. C'è sempre stato un est, c'è sempre stato un ovest. E parlo proprio di un diverso sviluppo urbanistico. Qui all'ovest pensavamo che quando il muro fosse caduto avremmo potuto uniformare il tutto con un moderno concetto urbanistico. Ma ci siamo presto resi conto che di fatto non era possibile. Si erano sviluppate, da un punto di vista sociale e culturale, troppe differenze. All'est, invece, la politica urbanistica tendeva, a causa di un'amministrazione con difficoltà economiche, a limitare le costruzioni di palazzi monumentali e a privilegiare l'edilizia popolare, a costruire nuovi edifici soprattutto in periferia e a ristrutturare alla meglio gli edifici più vecchi nel centro storico della città. Non li si sventrava affatto come all'ovest, e questa si è rivelata una fortuna, visto che ancora oggi a Mitte o a Prenzlauer Berg la struttura storica degli edifici è stata, magari con difficoltà tecniche, mantenuta. Gregor Gysi è stato, fino a pochi anni fa, il segretario del PDS, erede del Partito dei Lavoratori della DDR. Ora esercita la sua professione di avvocato, ma ha intenzione di riprendere presto il lavoro politico. Il termine ostalgia inizialmente aveva il sapore di una denuncia. Gli abitanti della Germania federale avevano uno standard di vita consolidato che non dovevano cambiare né in meglio né in peggio. Non erano costretti, come i loro cugini dell'Est, a vivere la riunificazione come una conquista coloniale. Ma è praticamente quello che è successo con l'ostalgia. Le élite del paese venivano sostituite senza alcuna giustificazione e senza essere più confermate nei loro ruoli di responsabilità. Quindi la prima cosa di cui ti accorgi è che le tue élite non ci sono più. E che se loro sono tagliate fuori, verosimilmente lo sei anche tu in qualità di semplice lavoratore. Bisogna fare molta attenzione in questo momento. Stranamente in Germania c'è sempre un po' di esagerazione e questo è sbagliato. Quando mi dicono che adesso va tutto male, penso che siano tutte fesserie. La società progredisce, c'è una libertà che nessuno può seriamente negare. E poi c'è un incredibile sviluppo delle infrastrutture, c'è stato l'ammodernamento delle strade, le ristrutturazioni di abitazioni e di centri pubblici, uno sviluppo enorme delle telecomunicazioni, insomma le potrei fare molti più esempi. L'altra faccia della medaglia è che molti tedeschi hanno perso la loro sicurezza sociale. Ed è un problema fondamentale perché questi nuovi sottoccupati o addirittura disoccupati non sanno cosa sarà del loro futuro. Naturalmente nella DDR il lavoro non era in pericolo e gli affitti erano gli stessi da decenni e un panino costava nell'89 lo stesso prezzo del 49. Ma vede, non bisogna disperare. Insieme riusciremo ad andare avanti. Wolfgang Thierse è il presidente del Bundestag, la Camera dei Deputati. È originario di Berlino Est, dove era professore di letteratura tedesca all'università. Dopo la caduta del muro, si è iscritto al Partito Socialista Tedesco. In televisione ci sono dei cosiddetti ostalgia show, a volte ridicoli, in cui più o meno poco intelligentemente ci si occupa della questione, ma senza mai prendere davvero seriamente in considerazione quale tipo di esistenza contraddittoria si è vissuta nella DDR. È un periodo a cui si ripensa volentieri, perché la DDR non fu soltanto una dittatura e un malgoverno, ma anche una società in cui c'era molta solidarietà nella vita di tutti i giorni, un posto in cui si viveva davvero umanamente. Il denaro non giocava un grande ruolo, poiché la differenza tra gli stipendi era relativamente piccola e non c'era molta differenza tra un dirigente e un operaio. Insomma, non si valutavano gli uomini in base a quello che guadagnavano o al loro stile di vita, che erano pressoché uguali per tutti. Io l'ho sempre ripetuto, dal 1990. Voi tedeschi dell'Ovest dovete decidervi tra la condanna a un sistema che si è spento ed è crollato e la condanna degli uomini che in quel sistema hanno vissuto. Questo lo posso dire tranquillamente, ma oggi non serve più a nulla. La torta è finita, la minestra è stata mangiata. I pesi erano sbilanciati. L'Ovest aveva ragione e l'Est torto. Lo dico senza pregiudizi, era così. E da questa considerazione nacque un'altra considerazione. All'Ovest non si doveva cambiare nulla e all'Est tutto. Gli uni erano i maestri e gli altri gli scolari. Questo è un valore di disuguaglianza, di differenza di diritti. Che da un punto di vista psicologico ciò sia piuttosto dannoso, è evidente. Che all'Est nascano una serie di complessi è altrettanto spiegabile. Rivorrebbero indietro gli aspetti piacevoli, qualcosa che non era poi così terribile e cattivo. E ci si chiede perché non c'è più, perché è stato distrutto. È nostalgia, questa? È un dispetto verso una superficiale e unilaterale valutazione della DDR che va contro tutta una serie di cose che per certi aspetti funzionavano. Ma adesso siamo in una situazione in cui improvvisamente anche l'Ovest si trova a doversi mettere in discussione, in cui non è più il maestro. Adesso, per la prima volta dalla caduta del muro, a parità di diritti, possiamo cambiare l'intero paese. Forse per cancellare completamente il concetto stesso dell'ostalgia ci vorranno ancora degli anni, ma saranno anni in cui la libertà e la democrazia saranno il nuovo punto di riferimento della Germania Unita.